Leggendere, stasera si va tutti in discoteca. Mi guardo in giro e ammiro cose mai viste. Puttane moraliste, miste a mistiche, sataniste, sono triste. Qualcuno mi dica se esiste una briciola di coerenza. Senza questa non mi resta che menare il DJ della festa e basta. Hai rotto il cazzo con sto disco, non digerisco l'underground, ti finisco giusto al primo round. Sti mastica pasticche io li impiccherei. Mos mamma, vada mamma che smazza ninna nanna. Nel cesso c'è una bonna dalla pelle liscia, ma da come piscia. Nell'interno coscia c'è una biscia, mi guarda e mi s'ammoscia. Va tutto alla rovescia, perché ciascuno non si prende il suo tipo sciascia. Lascia che ti converta, stai allerta, qualcuno mi avverta. Se porto la chiappa scoperta, diserta, sto posto di merda, lascia stare. Con sto volume non riesco a parlare, io mi chiedo chi cazzo me lo fa fare. Chi cazzo me lo fa fare. Chi cazzo me lo fa fare. Allora tutti al concerto dei gotici della morte! Sti quindicenni c'hanno la malaria, la faccia pigra, fanno già uso di Viagra. Nella sagra degli stolti, gli stolti sono molti, folti stormi di gotici morti, state vacuorti! Predicano morte, vogliono morte, morte appalate. Se vi piace la morte, spiegate perché non va ammazzate. Cagate su cagate, mi riserva sta vita di merda che m'osserva. Sul suo vetrino dove chino io faccio la larva, la prendo larga questa curva, non sbando. Sta musica mi ingrassa a vista tipo Marlon Brando. Meglio un tango a Parigi, meglio Memore MG, meglio un demo dell'MC più scemo che sto casino. In questo bagno di folla non c'è bagnino. Hanno lasciato tutto il cervello sul comodino. Sul palco si vomita, tra noi ci si sgomita. Andate a cagare, mi sta venendo pure il mal di mare. Io mi chiedo chi cazzo me lo fa fare. Chi cazzo me lo fa fare. Chi cazzo me lo fa fare. Chi cazzo me lo fa fare. Io mi chiedo chi cazzo me lo fa fare. Io mi chiedo chi cazzo me lo fa fare. Io mi chiedo chi cazzo me lo fa fare. Io mi chiedo chi cazzo me lo fa fare. Vabbè, allora si va tutti quanti allo stadio. Lasciami solo tipo Rita Pavone, se vai a vedere la partita di pallone. Perché non vengo con te, quella non è brava gente. Si pone violentemente a spinte, smantellate immediatamente. Slogan teppisti che stanno dinni fascisti, susti, spalti. Stanno tifosi misti a terroristi. Hai voglia a stare tristi se ci scappa l'omicidio? Sta casciara mi dà un senso intenso di fastidio. Hooligans e svastiche, binomio perfetto. Ti metterei quel palo dritto nel culetto con lo scudetto. Troppi ultracafoni senza nomi, c'hanno mani armate. Come diceva Antoine, quelli ti tirano le pietre. Sputi monetine, carta igienica. A domenica ci si porta pure la tromba per la carica. Mi sa che nemmeno alla banca del seme ho visto tanti cazzi messi insieme a saltare. A volte vorrei risanare, ma chi cazzo me lo fa fare? Chi cazzo me lo fa fare? Chi cazzo me lo fa fare? Chi cazzo me lo fa fare? Io mi chiedo chi cazzo me lo fa fare? Io mi chiedo chi cazzo me lo fa fare? Io mi chiedo chi cazzo me lo fa fare? Io mi chiedo chi cazzo me lo fa fare? Chi cazzo me lo fa fare? Chi cazzo me lo fa fare? Chi cazzo me lo fa fare?